Ciao a tutti, le brigate sono una serie di associazioni distribuite a livello nazionale e federate tra di loro, sono associazioni prevalentemente di volontariato. E, noi per varie peripezie ci siamo trovati nel 2010 ad occuparci appunto dei braccianti in Puglia. Chiamati da un'associazione del posto che da anni cercava di risolvere la situazione. La situazione qual è? Che oggi in agricoltura c'è un livello di sfruttamento di manodopera veramente molto esteso, cospicuo e con dei livelli di ferocia particolari. E in Puglia in particolare c'è una grande produzione di angurie, per la maggior parte queste angurie poi non vengono vendute in Italia, ma vengono vendute direttamente all'estero. Si tratta di grandi latifondi, quindi ovviamente grandi aziende e grande distribuzione. E tutti gli anni si ripete questo fenomeno, per cui un numero veramente impressionante di stranieri si trova a ruotare nelle diverse regioni italiane inseguendo differenti raccolte appunto di diversi prodotti agricoli. Per cui dalla raccolta delle angurie in Puglia ci si sposta e si va a raccogliere le patate in Sicilia, adesso tantissime persone stanno arrivando a Rosarno, tra l'altro quest'anno la situazione è parecchio critica e queste persone hanno una serie di problemi che coinvolgono la loro vita a 360 gradi, nel senso che oltre al problema dello sfruttamento sul lavoro, ovviamente c'è il fenomeno del caporalato, quindi degli intermediari che trattano con il produttore e poi ovviamente sfruttano le varie squadre che vanno a far lavorare, hanno poi un problema appunto a 360 gradi perché è quello di vita, nel senso che sono persone per la maggior parte senza permesso di soggiorno, che quindi vivono in mezzo ai campi, nella più completa invisibilità, e sostanzialmente sono le persone più ricattabili in assoluto, appunto perché sono clandestine, perché non hanno alcun diritto, perché non hanno una rete di sostegno familiare e sociale che li possa supportare. E noi abbiamo intrapreso questa avventura che è stata quella di provare ad aprire un campo di accoglienza a Nardò, quindi nel cuore del Salento, un campo d'accoglienza che voleva essere non per migranti ma per lavoratori, perché purtroppo da parte delle istituzioni l'accoglienza è vista come un posto dove metto dei numerini e a compartimenti stagni, no? Mi occupo del letto e della cucina e poi se fuori ci sono i caporali che reclutano non è un problema loro. Noi abbiamo provato a gestire questo campo d'accoglienza tentando di fornire una serie di strumenti che portassero fondamentalmente a ragionare di lavoro. E la storia di Nardò è stata abbastanza complessa, alla fine l'anno scorso ha portato ad uno sciopero che è stato molto importante per noi perché non è partito da noi, è partito presso questa masseria dove noi avevamo allestito il campo, perché alcuni ragazzi hanno deciso di rifiutarsi di lavorare a certe condizioni e lì le condizioni di lavoro sono veramente pesanti, nel senso che per un'ora di lavoro si viene pagati 3 o 4 euro. Con tutta poi una serie di spese che vanno dall'acqua al panino, al trasporto, se ti fai male all'ospedale, tutte queste cose vengono fatte pagare e quindi poi ricadono sullo stipendio, se si può chiamare così. E queste persone hanno deciso ad un certo punto che non avrebbero più accettato il ricatto che gli veniva fatto. E lo sciopero è stato potente. È finito anche stranamente sui media nazionali, anche se non ha avuto l'attenzione che meritava. E è stato potente perché è partito da loro e fondamentalmente queste sono persone che hanno poco da perdere. E quello che si sono detti era: ok, il potere che noi abbiamo in questo momento per incidere, per resistere, è quello di smettere di lavorare. Per cui facendo lo sciopero i pomodori marcivano nei campi e dopo una serie di peripezie qualche cosa è cambiato. Al di là dei risultati di Nardò, in generale sono condizioni che si vivono, che non si vivono soltanto al sud. Noi da Nardò in poi abbiamo conosciuto una serie di soggetti in tutta Italia, associazioni, altri braccianti, non braccianti, e siamo arrivati perfino in provincia di Cuneo, dove c'è la raccolta dei frutti e dove non c'è il livello di sfruttamento che c'è magari in Puglia o a Rosarno, dove i braccianti hanno magari un contratto, ma hanno un contratto che assolutamente è un pezzo di carta che non corrisponde poi a un effettivo pagamento, non corrisponde ai diritti. Che cosa fare? Ci sono tante associazioni che si muovono, associazioni, gruppi informali, centri sociali che si muovono in tutta Italia. Quello che noi abbiamo provato a fare, avendo la fortuna di essere un po' dislocati su tutto il territorio, è stato fondamentalmente cercare di mettersi in rete. E siamo partiti l'anno scorso su Rosarno, appunto, con la distribuzione delle arance, con l'idea che seppur coscienti di non incidere perché non sei concorrenziale con quello che è il sistema della grande distribuzione, oggi poi con i nuovi accordi col Marocco, quindi non riesci a risolvere il problema, però ci siamo detti quantomeno. Quello che noi facciamo arrivare sulla nostra tavola, tramite dei circuiti di distribuzione alternativa, possiamo essere certi che quantomeno non va ad alimentare quel tipo di sistema lì. L'agricoltura, l'agrumicoltura calabrese è destinata fondamentalmente a scomparire. Noi abbiamo parlato con tantissimi produttori l'anno scorso e tutti quanti ci mettevano davanti dei numeri. Che sono poi le spese che loro hanno e i prezzi a cui il loro prodotto viene comprato dalla grande distribuzione, ed era chiarissimo come non potessero sopravvivere. Se andiamo a Rosarno, magari adesso no perché comincia la stagione, ma già a febbraio, vediamo che tantissimi aranceti hanno le piante basse, le foglie sono gialle e i campi vengono abbandonati. Perché? Perché a un produttore un chilo di arance costa circa 30 centesimi, produrlo e farlo lavorare ovviamente senza sfruttamento, la grande distribuzione compra, la Coop compra a 25 centesimi al chilo le arance. L'anno scorso c'è stata questa inchiesta che ha fatto tanto scalpore perché è uscita su una rivista internazionale, Economist, mi sembra. Non è uscito. Che riguardava la Coca-Cola ed c'è stato questo grande scandalo, ah, la Coca-Cola compra le arance, la Coca-Cola comprava le arance a 8 centesimi al chilo. E questo significa che chiaramente per il produttore diventa fondamentale riuscire ad avere uno sbocco sul mercato che sia uno sbocco alternativo, se non vuole trovarsi costretto a vendere il terreno o abbandonarlo o a ricorrere a manodopera a basso costo, che fondamentalmente è quello che poi viene fatto. Stiamo cercando di appunto continuare con questo progetto che non è semplice per questi ed altri mille motivi, nel senso che poi Rosarno è una situazione molto complicata per tanti fattori. Quest'anno abbiamo deciso che non distribuiremo più noi direttamente le arance, ma che stiamo trovando il modo di passare direttamente i contatti dei gruppi d'acquisto soprattutto e delle persone che le compravano da noi direttamente al produttore, in modo da poterci noi occupare di un altro aspetto che è quello più legato appunto all'accoglienza e alle pratiche di autorganizzazione dei braccianti. Da gennaio faremo partire dei turni perché abbiamo alcune piccole iniziative che vorremmo far partire, tra cui una ciclofficina itinerante, perché a Rosarno i braccianti stanno nei casolari abbandonati in mezzo agli aranceti, quindi sono molto isolati dai centri abitati, ovviamente non riescono a spostarsi e una delle cose che ci chiedevano appunto era delle biciclette. Questo, una scuola di italiano, una serie di strumenti che appunto cerchino di dare un segnale che è quello non di una solidarietà che viene portata e rimane lì finché tu ci sei e poi scompare quando tu te ne vai, ma l'idea è quella di organizzarsi e mettersi insieme per tentare di costruire delle strade che poi possano renderci indipendenti in quello che noi facciamo. Stasera si parlava appunto di diritti che riguardano in generale tutti a 360 gradi e quindi appunto iniziative come queste sono forse delle goccioline nel mare, però facendo rete e mettendosi insieme e coordinandosi possono rappresentare dei momenti importanti.